Salva Danaio di Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, soprattutto benvenuti a tutti coloro che ci stanno anche così un po' osservando nel padiglione dello stand del Consorzio dei Vini d'Abruzzo. Siamo oggi in diretta da Verona, dal Vinitaly, e naturalmente anche noi non ci faremo mancare qualche considerazione sull'andamento di questo tipo di investimento, anche se il tema che affrontiamo questa mattina è un altro, perché questo è il terzo mercoledì del risparmio, l'ultima tappa del percorso di avvicinamento al Salone del Risparmio di Assogestioni, durante il quale verranno organizzate 3 puntate di Salva Danaio, comincio già a ricordarvelo, con i protagonisti del settore. Oggi invece andiamo in onda, come vi dicevo, in diretta da Verona, dove si tiene l'edizione 2013 del Vinitaly, e pur cogliendo l'occasione per segnalare qualche curiosità in merito al settore del vino e alle opportunità che offre anche sul fronte degli investimenti, l'obiettivo della trasmissione resta quello di informarvi e aggiornarvi sui temi del risparmio gestito. Perché? Alla luce dei dati positivi per la raccolta dei fondi di investimento nei primi 3 mesi dell'anno, questa volta scegliamo di approfondire l'analisi dei diversi mercati europei ed internazionali per capire anche dove si nascondono, se ci sono ancora occasioni di investimento interessanti, ma per capire anche se i mercati che sono cresciuti di più negli ultimi mesi possono essere così in procinto magari di fare una pausa. Chiaramente partiremo da alcuni casi emblematici. Il Giappone, ad esempio, che sta assistendo e registrando un vero e proprio rally incentivato dalle misure di stimolo monetario straordinarie che sono state varate la settimana scorsa dalla Banca Centrale del Giappone, ma guarderemo anche a cosa succede negli Stati Uniti. Wall Street lo stesso ha in corso un rally eccezionale, il Dow Jones anche questa mattina ha segnato un nuovo record, così come lo Standard & Poor's, e praticamente il mercato americano si è riportato sui livelli precedenti del crack Lehman Brothers. E allora, dopo tutte queste corse, conviene ancora puntare su questi mercati o c'è la possibilità che sopraggiungano correzioni poco vantaggiose? 800 24 00 24, il numero verde se vorrete per interagire con noi sui temi di questa mattina. State osservando l'andamento dei mercati internazionali, avete delle curiosità su questo, quali vi interessano di più? Noi ne parleremo con Donatella Principe, responsabile dell'Institutional Business per l'Italia di Schroders, che è un grande fondo di investimento internazionale. Dottoressa Principe, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Grazie a lei e grazie anche a Monica Defend, strategist di Pioneer Investment, che tra l'altro questa mattina, se non ricordo male, in collegamento con noi da Monaco. Buongiorno. Esatto, ci sente? Buongiorno, grazie. Eccoci mille. Qua. Una puntata curiosamente tutta al femminile questa mattina per parlare di mercati, peraltro ovviamente mi vorrò togliere anche delle curiosità con le mie due interlocutrici di questa mattina per capire se sono appassionate di vino, se sono delle bevitrici, quali a loro piace di più. Per interagire invece con noi, per i nostri ascoltatori, ho già dato il numero verde, l'ho già ricordato, avete anche, come sapete, gli altri canali. Per farlo ci potete scrivere dei messaggi al 349-238-6666. Ci potete scrivere delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, siamo su Facebook, il nostro profilo è su salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Parleremo sì di mercati internazionali, ma chiaramente dobbiamo anche osservare quello che sta accadendo adesso sulla borsa italiana. In borsa italiana, ma naturalmente anche in tutta Europa, perché oggi ci interessa particolarmente Milano, perché c'è stato un ottimo esito, forse anche un po' inatteso, delle aste di questa mattina organizzate dal Tesoro italiano, che ha collocato 11 miliardi di euro di botte con scadenza a 3 mesi e 12 mesi. La buona notizia è che sono stati tutti collocati questi 11 miliardi con una domanda elevatissima e soprattutto i tassi di interesse sono in netta discesa. Per il titolo ad un anno il Tesoro ha riconosciuto lo 0,92%, per il botte a 3 mesi il tasso chiesto è stato dello 0,24%, il minimo storico assoluto per il rendimento di questa tipologia di appunto titolo, che non veniva collocato dall'ottobre del 2010. Il Banco Popolare è il miglior titolo di Piazza Affari, segna più 6%, Fiat più 4,46%, Mediobanca più 4,11%, Azimut più 3,86%. Oggi stanno volando tutti i titoli del risparmio gestito, che stanno mostrando segni molto interessanti per quello che riguarda la raccolta degli ultimi mesi. Infatti lo dicevamo anche in apertura di programma, il settore del risparmio gestito ha ripreso a correre e a raccogliere molto bene. La Popolare dell'Emilia Romagna più 3,33%, Finmeccanica più 3 punti anche anche per Ubibanca, Intesa San Paolo e Unicredit, che scende invece stamattina in pregilo, meno 0,8%, Telecom meno 0,8%, domani c'è il Consiglio di Amministrazione e Franco Bernabè, il Presidente, dovrebbe presentare il dossier su una possibile aggregazione con Tre Italia. Euro su dollaro a 1,3097, le altre borse europee guadagnano tutte più di un punto percentuale, lo spread fra BTP e Bund è vicino ai 300 punti base. Queste le notizie che arrivano questa mattina dalla borsa europea, ma sentiamo nella nostra scheda cosa è successo negli ultimi mesi sui mercati finanziari internazionali. Il 2013 sembra essere partito con il piede giusto per il mercato del risparmio gestito in Italia, dove la raccolta dei primi due mesi dell'anno, toccando quota 12 miliardi, ha già compensato gli 11,3 persi nel 2012. Un buon segno, che fa pensare al ritorno di un po' di fiducia e voglia di investire, anche se questi anni, purtroppo, hanno abituato i risparmiatori alle ricadute e alle frenate inattese. Che ci sia un effettivo cambiamento in corso e con un segno positivo, lo dicono però chiaramente i numeri. Basta dare un'occhiata in giro per il mondo, dove diversi mercati, sui quali questi fondi in molti casi investono, hanno ormai intrapreso veri e propri rally. La borsa giapponese, ad esempio, per quanto lontana dai massimi, sta andando molto forte. Da inizio anno il Nikkei ha totalizzato un più 21%, premiando la politica economica del governo di Shinzo Abe, che ha un suo punto di forza nella complicità della banca centrale e nella sua politica concentrata su misure di stimolo monetario. Corre anche Wall Street, che è ormai tornata ben al di sopra dei livelli pre-crisi. Dal marzo 2009, quando ha toccato il minimo storico, il Dow Jones è più che raddoppiato. E anche in questo caso un ruolo l'ha giocato la Federal Reserve, con 4.000 miliardi di dollari iniettati nell'economia americana, che ora guarda a nuovi orizzonti industriali, come lo sfruttamento dello shale gas, il gas naturale che potrebbe cambiare radicalmente lo scenario energetico degli States, rendendoli indipendenti dall'OPEC e modificando gli equilibri di concorrenza con la Cina, la fabbrica del mondo che in realtà, sul fronte dei mercati, resta molto lontana dai massimi toccati nell'ottobre del 2007. In Europa tira un'aria ben diversa. Con l'eccezione della locomotiva tedesca, regna ancora la preoccupazione per i paesi periferici, con la ferita di Cipro ancora aperta, lo stallo politico italiano e la BCE, che fa ancora eccezione rispetto a molte altre banche centrali, continuando ad evitare politiche monetarie espansive. Riportando i piedi per terra e pensando alle esigenze dei risparmiatori, restano aperti vari dubbi sulla convenienza di un investimento in questo momento. Listini ridimensionati permettono di acquistare a prezzi bassi sperando in una possibile ripresa, ma quanto ci sarà da aspettare? Dall'altra parte, puntando su un mercato in rapida crescita, il rischio che presto sopraggiungano correzioni di rotta ben poco vantaggiose è sempre in agguato. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori se vogliono porci delle domande sul tema di questa mattina, delle osservazioni, delle considerazioni che condivideremo con le nostre ospiti Donatella Principe del gruppo Schroeders e Monica Defender di Pioneer Investment. Comincio subito con la Donatella Principe per capire quali siano un po' le sue riflessioni rispetto a tutto il gruppone di temi che abbiamo affrontato nella nostra scheda, ognuno dei quali per la verità meriterebbe un approfondimento appunto appositamente dedicato, però la domanda appunto è legittima e molti ascoltatori se la fanno anche, per la verità forse un po' tutti concentrati sulla questione europea. Dottoressa Principe, abbiamo mancato di tenere nella dovuta considerazione l'andamento degli altri mercati, no? Chiaramente eravamo più preoccupati per la condizione di casa nostra e con un po' più di distacco abbiamo guardato invece alle buone performance che sono arrivate dal Giappone e dagli Stati Uniti, con il rischio che adesso qualcuno tenti magari di salire su questi mercati in una fase un po' tardiva, oppure non è mai tardi anche per entrare sul mercato azionario anche quando questo va molto bene. Che ne pensa? La prima considerazione da fare è che forse fino a luglio dello scorso anno era legittimo focalizzare la propria attenzione sulla questione europea, perché poi è stato l'elemento che direttamente o indirettamente ha condizionato le scelte a livello globale, non solo degli investitori, ma basta pensare anche alle scelte di investimenti fatte dagli imprenditori americani. Diciamo che da quando Draghi si è espresso in maniera molto chiara sul sostegno all'Europa e ha eliminato un po' tutti quei quelli che erano gli scenari più estremi che si sarebbero potuti concretizzare, uno sguardo più internazionale avrebbe oggettivamente pagato, perché sul piatto c'erano dei temi molto importanti che proprio in quei mesi andavano concretizzandosi, non ultimo quello sottolineato dal servizio estremamente importante, dopo 20 anni il ritorno del Giappone sulla scena internazionale con un ruolo fortemente dominante. Ovviamente la considerazione se salire sul carro del vincitore quando la corsa è già iniziata, opportuni o meno, va distinto mercato per mercato, però sicuramente il tema del Giappone è un tema che è appena iniziato e non sicuramente agli sgoccioli. Come pure molto interessante, un altro tema del quale secondo me anche sui quotidiani non si parla a sufficienza, che è quello relativo a questa rivoluzione industriale in corso negli Stati Uniti, che sta cercando di rendersi indipendente dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico dalle altre economie internazionali. E qualche gestore, qualche vostro collega qualche tempo fa mi ha detto: non solo questo rialzo della borsa americana è giustificato, ma qualcuno si chiede addirittura come mai non sia cresciuto di più alla luce proprio di questa rivoluzione industriale che dicevo. Anzi, Monica Defende, le chiedo subito un giudizio appunto sulla questione statunitense, che è davvero, non dico molto interessante, se non addirittura affascinante, direi, la questione dello shale gas. Che ne dice? Ma sicuramente il tema del gas naturale è molto importante ed è una delle chiavi di lettura del mercato azionario americano. Tuttavia io credo che, come tutte le rivoluzioni industriali, impieghino un po' di tempo prima di poter essere portate a compimento, per cui motivo che ha trattenuto, se vogliamo, da un lato il mercato americano a partire in maniera più decisa, è comunque legato alla crescita che rimane intorno al 2% e alla paura che le politiche fiscali restrittive possano porvi un freno. Mi riferisco adesso al tema della sequestration, piuttosto che a inizio anno quando eravamo preoccupati del debt ceiling. Quindi sì, gas mi può fare le traduzioni letterali di questi termini che ha utilizzato a beneficio dei nostri ascoltatori, dottoressa Defend? Sì, mi scusi. La sequestration sono i tagli automatici di spesa che il governo americano vorrebbe porre in essere, tipo il taglio sulla sanità, i tagli sulla difesa, i supporti, i sussidi per i lavoratori. Invece il problema del debito, l'enormità del debito americano era stato posto in discussione su dicembre dello scorso anno. Fiscal cliff, questo almeno ce lo ricordiamo tutti. Sì, con gli altri termini sì, Eravamo più in difficoltà, con il fiscal cliff ormai abbiamo preso confidenza. continui pure, sì. Sì, e quindi comunque il tema della politica fiscale restrittiva continua a pesare sull'America, che potrebbe portare a casa una crescita intorno al 2% per il 2013, con un tasso comunque di disoccupazione che rimane elevato e sulla quale la banca centrale americana rimane molto concentrata. Quindi tutto questo per arrivare a dire che cosa, dottoressa Defende? Che tutto sommato anche che penso questa che corsa il tema forte del gas naturale sia importante, ma sia un tema di lungo termine. Ecco, esatto, è che la non ripresa penso anche che degli abbia indici un effetto immediato. E che la ripresa degli indici, molto sostenuta comunque, registrata negli ultimi mesi, sia forse anche dovuta alla politica monetaria espansiva della Banca Centrale Americana, e quindi forse un po' una corsa un tantino drogata da questo? Ma allora, le politiche monetarie espansive sono una condizione necessaria affinché si possa uscire da questa crisi. Che poi l'effetto possa essere quello di un doping è da valutare caso per caso. Sicuramente credo che mi scusi? Sì, sì, no, niente, abbiamo forse qualche volta delle interferenze. La linea è disturbata, mi scusi. Per cui credo che la posizione della Banca Centrale Americana non potesse essere diversa. Allora, 800-24-0024, il numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Se vorrete, vedo già qualche segnalazione di richiesta di intervento per capire l'andamento dei mercati del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, che effettivamente hanno sofferto, in particolar modo la Cina un po' di più, nonostante ancora da molti venga giudicata estremamente promettente, non nel lungo ma nel lunghissimo periodo. E naturalmente sentiremo questi ascoltatori tra poco, dopo la nostra prima pausa. anzi direi, se anche da Milano sono d'accordo, di andarci immediatamente, perché poi nella seconda parte del programma vorrei fare un ragionamento un po' più articolato appunto sulla questione del Giappone, per capire appunto se anche qua è adesso una prospettiva interessante per coloro che volessero puntare su questo mercato, capire anche quanto effetto avrà questa super manovra di stimolo monetario che è stata adottata la settimana scorsa, e soprattutto, per chi non ha capito di cosa stiamo parlando, ci faremo spiegare dalle nostre ospiti in che cosa appunto consiste questa super operazione. Il vino italiano è in buona salute, sia sul fronte della qualità che su quello della produttività, che sembra schivare le minacce della crisi economica. Crescono fatturato, occupazione ed export, come conferma l'ufficio studi Mediobanca con la consueta indagine sui bilanci delle 108 principali aziende vinicole made in Italy. Nel 2012 il fatturato complessivo del settore è salito del 7%. Il secondo anno consecutivo di siccità ha portato ad una flessione del 17% in Francia, dell'11% in Spagna e del 6,3% in Italia, con la produzione a 40,8 milioni di ettolitri. Ma il calo non ha impedito al bel paese di tornare primo produttore al mondo, superando i cugini d'Oltralpe. Insomma, il vino italiano va di gran lunga meglio della borsa e piace ai mercati di tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, dove le vendite di bottiglie made in Italy hanno superato lo storico tetto del miliardo di euro. E questi sono i motivi anche per cui noi questa mattina siamo interessati a monitorare come stanno andando questi mercati internazionali dal punto di vista dell'investimento anche azionario ed obbligazionario, perché da qualche tempo stiamo raccontando di questo rally che stanno vivendo la borsa giapponese, ma anche gli Stati Uniti, molto bene anche alcune borse europee, non tutte, tra cui Piazza Affari, che naturalmente sconta anche l'incertezza politica molto seria, che forse ha anche avuto una schiarita nelle ultime ore, e l'effetto se n'è visto anche sull'andamento questa mattina dell'asta organizzata dal Tesoro italiano. Vi abbiamo proposto questa scheda perché noi oggi con Salva Danaio siamo in diretta dal Vinitaly, da Verona, però parliamo di mercati e di scenari internazionali con Donatella Principe, responsabile dell'Institutional Business per l'Italia di Schroders, e Monica Defend, strategist di Pioneer Investment. Dottoressa Principe, lei beve? Molto poco. Quando si tratta di bere, io sono come un piccolo risparmiatore con un profilo molto basso. Il mio portafoglio di bibite è fatto quasi tutto di soft drink. Averlo saputo, non potevo invitarla allora questa mattina, ma naturalmente speriamo che le poche volte che lo faccia con, come dire, scegliendo la qualità italiana. Quando scelgo di bere vino ho due linee guida. La prima è delegare la scelta ad un esperto, ammettendo la mia totale incompetenza. Come sa il risparmiatore quando sceglie il risparmio gestito. La seconda è cercare di avere un approccio improntato alla qualità, quindi sicuramente vini italiani che sono delle eccellenze, ma non disdegnare un approccio internazionale in mercati più esotici come magari il Sudafrica. Che risposta politicamente corretta, non ci potevo. però per il vino magari chiaramente il gusto ci può orientare, anche lei dice però delega nonostante tutto anche per la ricerca della qualità un esperto. Monica Defende, lei invece come si comporta? Ma io sono purtroppo in una posizione un po' diversa, nel senso che mio papà è friulano, mia mamma è siciliana e quindi è quasi cromosomica la mia passione per il buon vino e il buon cibo. Sono stata educata così, io andavo in vigna e il vino ce lo facevamo in casa, quindi non posso non bere vino a pasto. Com'è potuto succedere allora? Com'è potuto succedere che abbia deviato il suo percorso professionale scegliendo la finanza? Questa me l'ha proprio tirata fuori. E mettiamo così che dopo la finanza ci vuole sempre un buon bicchiere di vino per poterla digerire. Torniamo allora a parlare invece di Stati Uniti, Giappone e tutti gli altri mercati che stanno correndo, dando anche delle soddisfazioni a chi ha puntato da lungo tempo appunto su questi mercati. Naturalmente però queste persone hanno dovuto sopportare anche tutti gli scossoni degli ultimi anni, che sono stati determinati appunto dalla fortissima crisi che ci ha travolto tutti e che molti paesi ancora stanno, per la verità, pagando. Direi di farvi ascoltare, prima di andare ad affrontare in maniera più approfondita la questione del Giappone, alla quale teniamo particolarmente, direi che ci possiamo far aiutare da un paio di domande di alcuni ascoltatori che ne vogliono sapere qualcosa in più, cominciando con Fabrizio da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Vedo tra l'altro che lei ha fatto una relazione appunto tra Giappone e Italia abbastanza curiosa, quindi voglio proprio sentire di cosa si tratta. Sì, ecco, vorrei insomma, sarebbe l'intenzione di acquistare un'obbligazione italiana, denominata Italia appunto, che come lei dice sarà il BTP Italia che esce lunedì prossimo. No, no, è già in circolazione, già sul mercato. Ed è, se ricordo bene, come Standard & Poor's, denominata però in yen. Denominata in yen. In yen, cioè guardi, io adesso faccio su un prodotto specifico. Fabrizio, la posso interrompere un attimo? Su un prodotto specifico non posso chiedere un commento a due persone che magari neanche lo conoscono, per cui magari si ci può fare, come dire, una relazione un po' più un po' diversa. Non possiamo darle un suggerimento su un investimento su un prodotto specifico, per cui magari se può allargare la domanda, voleva sapere qualcos'altro. Ha pienamente ragione, mi scusi. Comunque sia, diciamo, è opportuno, comunque può essere valido, diciamo così, acquistare titoli denominati in yen in questo momento, visto il rapporto euro-yen. Grazie Fabrizio, già qua possiamo farci aiutare un po' meglio dalle nostre interlocutrici. Ricomincio da Donatella Principe di Schroders. Effettivamente, per chi volesse andare su questo mercato, anche che tipo di riflessione deve fare relativamente al rischio valuta o opportunità valuta, dottoressa Principe? È un tema centrale perché buona parte del processo di ripresa del Giappone transita attraverso la possibilità e la capacità del governo e della banca centrale di continuare a deprimere la valutazione dello yen. Perché si possano concretizzare gli obiettivi che ha in mente in questo momento il governatore della Bank of Japan in termini di inflazione, c'è bisogno che dopo il meno 10% dello yen si assista almeno ad un altro meno 10%. Quindi tenere sotto controllo la componente valutaria è fondamentale, ma lo sarà anche nel giudicare altre tipologie di investimento come possono essere quello obbligazionario, come quello azionario, perché oggi abbiamo un Giappone che ha cambiato completamente faccia rispetto agli ultimi 10 anni e il tema dell'internazionalizzazione delle sue aziende resta ormai centrale. Certo. Senta, l'iniziativa della Banca Centrale del Giappone adottata la settimana scorsa, che ha inondato di liquidità il mercato appunto attraverso operazioni straordinarie di acquisto di titoli di Stato, peraltro sui tassi di interesse non è che si potesse agire più di tanto visto che stanno a zero ormai da anni e non era per niente scontata un'operazione di un ammontare così ampio. Secondo lei, ecco, un'operazione di quel tipo là, quali settori dal profilo dell'investimento azionario potrà favorire? Il primo, che sembra aver proprio preso la parte più importante del rally, ha fatto un po' da volano, è per esempio quello del mercato immobiliare, dove noi abbiamo iniziato a vedere i minimi toccati nel settore degli affitti degli uffici, vediamo che anche nel settore residenziale potrebbe ridursi il tasso di mancata occupazione degli edifici, ma è un po' un processo che a cascata dovrà interessare l'intera economia giapponese se vogliamo che quello che in questo momento è un input porti fuori il risultato che tutti quanti si aspettano. Il segnale è stato importante perché abbiamo finalmente visto una banca del Giappone che non opera con il freno a mano tirato e che fa seguire i fatti alle parole e si muove in perfetta sintonia con il governo. Peraltro un tema importantissimo è che il Giappone ha finalmente colmato quel divario in termini di azione che la differenziava notevolmente rispetto agli Stati Uniti, rispetto all'Europa e rispetto all'Inghilterra. L'importanza della mossa fatta da Kuroda, il governatore della Banca del Giappone, si vedrà nel momento in cui le intenzioni saranno recepite a livello di economia reale, perché è importante ricordare che il grosso male del Giappone è la deflazione, quindi la crescita negativa dei prezzi, che è legato alle aspettative dei consumatori. Se i consumatori si convinceranno che stanno assistendo ad un'inversione del trend dei prezzi, che porterà con sé un'inversione dei trend dei salari, allora questo processo virtuoso proseguirà e anche chi non ha beneficiato fino a questo momento dal rally del Giappone potrà continuare a pensare di investire su questo mercato. Ovviamente l'altra faccia della medaglia è che chi fino adesso ha per esempio comprato obbligazioni giapponesi dovrebbe guardarle con un pochettino più di sospetto, perché sono le argomentazioni opposte e contrarie quelle che fino a questo momento hanno giustificato quel tipo di investimento. Andiamo adesso agli altri mercati, anche se è talmente interessante anche la storia giapponese che meriterebbe un approfondimento ulteriore, però per accontentare i nostri ascoltatori sentirei Giovanna da Livorno con appunto appunto una riflessione molto ampia che poi girerò a Monica Defende. Giovanna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io sono la stessa di Imperia, Giovanna Livorno Imperia. Ah, eccoci qua. Giovanna, lei beve, le e piace il vino? L'ascolto sempre, l'ho ascoltata lo so. Anche domenica sera. Sono una sua assidua ascoltatrice. Dove ero domenica sera? Dove mi ha pescata? Ah, sì, no, lasciamo perdere. So, ho capito quello che sta dicendo. Giovanna, senta, lei beve intanto, mi racconti un po'. Io bevo, buona bevitrice. Da buona toscana, bevo del buon vino toscano, un bicchiere a pasto. Benissimo. Allora, invece dal punto di vista dei mercati, quali sono le aree che le interessano? Dal punto di vista dei mercati, anziché quelli che corrono, io volevo sapere qualcosa su quelli che si sono un po' seduti, tipo il BRIC. Io sono esposta un po' sul BRIC, dunque nonostante la mia età sopporto con spalle larghe, perché ho piccola possibilità di sopportare eventuali retrocessioni, o inversioni, sì, eccetera, e quindi non, dal punto di vista comportamentale, non mi lascio spaventare. Condizionare, spaventare, Giovanna, va bene. Allora, sentiremo allora, adesso. Io volevo sapere questo: il BRIC, dunque, tutti i mercati, ma anche il Brasile, anche la Russia, che avevano buone potenzialità, al momento sono un po' in difficoltà. Sono fatti congiunturali, legato alle materie prime, legati, non so, alle esportazioni minori, al consumo di energia minore, oppure ai consumi interni che un pochino retrocedono. Cioè, quindi un riassestamento, lei dice, complessivo, c'è cioè un riequilibrio complessivo, oppure c'è qualcosa di più profondo? Sono strutturali, quel che hanno corso e è opportuno magari uscire. Io volevo saperlo perché sono un po' esposta e le ripeto, non ho la paura di un calo momentaneo. Ma certo, però lei dice se dura un anno bene, ma se gli esperti mi dicono che tutto questo potrà durare 5-6 anni, magari io ci ripenso, no? E ricostruisco il mio portafoglio diversamente. Giovanna, devo salutarla, grazie intanto per la sua fedeltà al nostro programma Radio 24. Adesso sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ritorniamo e quindi già anticipo a Monica Defende che vorrei affrontare con lei tutto questo ragionamento. Conviene investire nel vino? La tendenza del consumo mondiale sembrerebbe incoraggiare questa scelta. Il nettare di Bacco dovrebbe infatti crescere di almeno un punto percentuale ogni anno, a dispetto della crisi economica e del calo degli acquisti. Si beve sempre più vino anche in Cina e in Giappone, una notizia che non può che incoraggiare i produttori italiani, visto che il bel paese è il primo esportatore. Non va dimenticato poi che l'investimento nel vino può essere inteso anche nel più stretto significato finanziario. L'italiano Sergio Esposito, trader espatriato negli Stati Uniti, ha creato il The Bottled Asset Fund, l'unico fondo di investimento specializzato nei grandi vini italiani. Può essere un'idea originale e, diciamolo, anche un po' trendy per diversificare il proprio portafoglio, puntando su un bene reale, tangibile e di indubbia qualità. Vino, vino, vino, vino e pace ancora. Ed eccoci qua allora anche in questo blocco di Salvadanaio, una pillola per ricordare che oggi trasmettiamo dal Vinitaly di Verona, però stiamo parlando di scenari di investimento più complessivi. Abbiamo sentito la considerazione piuttosto articolata di una nostra ascoltatrice che diceva ma insomma per tanti anni abbiamo puntato in molti sui paesi del BRIC, questo acronimo coniato, lo ricorderete, da Goldman Sachs, che definiva appunto con queste quattro lettere in realtà l'aggregato dei paesi del Brasile, la Russia, l'India e la Cina. Monica Defend, effettivamente qualche rallentamento in queste aree c'è, soprattutto per quello che riguarda la Cina, che ancora tutti considerano sicuramente l'area più promettente del mondo, però da quando hanno detto esportiamo meno e pensiamo di più al mercato domestico, alla crescita e all'emancipazione anche economica dei cinesi, in realtà questa borsa sta facendo soffrire un po' chi ci ha puntato da qualche tempo. È così? Allora, intanto parto da una considerazione iniziale. Noi abbiamo una posizione di preferenza per i paesi emergenti, in particolare l'Asia, proprio basata su un differenziale di crescita rispetto ai paesi sviluppati che va considerato. Per quanto la Cina possa rallentare, quindi non registri più una crescita del PIL a doppia cifra, già un 7,5-8% è decisamente superiore rispetto a quella che può essere un'America intorno al 2% o addirittura un'Europa che si muove intorno allo zero. Questo è un aspetto, la interrompo solo per un attimo per dire che ci ha sempre molto affascinato. Il fatto che la Cina cresca invece dell'11%, l'8-9% delude gli investitori mondiali, e questo è pazzesco se consideriamo i tassi di crescita ai quali siamo abituati, esatto, invece noi, che non vedremo mai, esatto, storicamente, esatto, appunto questi, esatto, livelli. Comunque. Sì, questo sì, continui è pure. Il frutto di un'economia che sta transitando lentamente verso un modello di crescita più bilanciato, nel senso che il 13% era dovuto al grosso investimento in infrastrutture fatto dal governo cinese, che non è pensabile possa essere sostenuto nel lungo termine. E tutto sommato l'esperienza del Giappone degli ultimi 20 anni proprio ci insegna in che modo vada a finire un'economia dove si vanno a premiare troppo gli investimenti rispetto ai consumi. Quindi quello che stiamo affrontando in questo momento ritengo sia un rallentamento di tipo ciclico, non strutturale. Penso che la Cina... E qui è questo ciclo, per essere un po' più chiari con la nostra ascoltatrice che è interessata ai termini temporali. So che voi fate tutti un po' più fatica a sbilanciarvi rispetto al passato, ma lei quanta durata vede in questo ciclo di correzione? Guardi, noi abbiamo delle previsioni di crescita per quest'anno che si muovono tra il 7,5% e l'8%, e pensiamo che nel lungo termine, quindi di qua ai prossimi 7-8 anni, si possa arrivare a un 6% come crescita di trend, quindi decisamente dei tassi di crescita di lungo termine che ancora sono superiori rispetto a quelli dei paesi sviluppati. Una preoccupazione che è sorta nuovamente in Cina è stata l'inflazione. Il dato che è uscito ieri è stato confortante, perché è uscito un 2,1% a segnale che il prezzo degli alimentari sta scendendo, e se l'inflazione in Cina è sotto controllo, questo permetterà alle autorità centrali di continuare a supportare la crescita. Detto questo, le altre aree, dopo Russia, India. Esatto. È importante segnalare come nei paesi emergenti ci siano tante identità nazionali tra loro diverse. C'è una eterogeneità intrinseca all'interno dell'area emergente che va considerata. Per quanto riguarda la Russia, è molto legata all'andamento del prezzo del petrolio. Siamo un pochino cauti per quello che è il quadro politico del paese, che quindi mette un po' a rischio dal nostro punto di vista l'investimento. Stiamo invece studiando Latin America perché ci sono delle dinamiche di tipo congiunturale e demografico che potrebbero favorirla nel medio termine. Se abbia ancora senso parlare di BRICS come Jim O'Neill, che tra l'altro adesso è andato in pensione, forse ha fatto il suo tempo come mappatura geografica, sì, il termine BRIC, ma bisognerebbe proprio concentrarsi a livello di singolo paese. Infatti qualche tempo fa avevo sentito parlare dei Next 11, i prossimi 11, altre 11 aree appunto del mondo ad alto potenziale di crescita, ma probabilmente ci saranno anche altre definizioni in circolazione. Magari una volta dedicheremo una puntata di Salvadanaio appositamente a tutto questo. Dottoressa Principe, vorrei ritornare a lei su un altro tema. I russi, di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi tempi, sono stati quelli per esempio che hanno visto i loro depositi decurtati a Cipro con il maxi tagli appunto che è stato adottato per fronteggiare la crisi bancaria di quel paese. Tutto questo per arrivare a dire, secondo lei la questione di Cipro deve ancora preoccupare molto l'Europa? Molto dipenderà da quanto riuscirà la guida dell'Europa a rassicurare gli investitori che veramente si è trattato di un episodio una tantum. I segnali che si sono avuti nella gestione della crisi cipriota sono stati estremamente negativi, non tanto per Cipro in sé, ma per i messaggi che hanno condiviso con il mondo. Era una crisi che si sapeva da tempo sarebbe scoppiata, e molto tempo è stato speso inutilmente senza affrontare il problema. E quando si è arrivati alla soluzione, si è cercato in qualche modo di creare un pacchetto risolutivo che compiacesse la Germania, ma che di fatto toglieva il terreno sotto i piedi alla BCE. E non dimentichiamoci che se la situazione si è rasserenata in Europa e a cascata nel resto del mondo, due sono gli elementi che stanno contribuendo: la firma del Fiscal Compact e la decisione della BCE di fare da compratore di ultima istanza sul mercato. Basta immaginare cosa sarebbe stata la situazione italiana nel contesto attuale senza questo supporto implicito della BCE e senza il pilota automatico legato al fiscal compact. Quindi se veramente Cipro è stato un errore circoscrivibile, allora non dobbiamo aspettarci grosse ricadute. Se però Cipro è l'ennesimo segnale che l'Europa non è ancora pronta e in grado di affrontare la crisi dell'euro come un problema globale e continua a ragionare caso per caso e continua a mettere in discussione alcuni punti di riferimento come la subordinazione di certi investitori rispetto ad altri, e beh, allora quello è stato l'inizio di una maggiore turbolenza. Però le mosse e le contromosse prese poi nei giorni successivi ci lasciano immaginare che la correzione di tiro porti poi verso un rasserenamento del clima. Che sia tutta l'intenzione di farlo rimanere appunto un caso isolato, una soluzione isolata. Grazie molte a Donatella Principe di Schroders, a Monica Di Feneri, Pioneer Investment, per essere state con noi questa mattina. Salvadanaio dal Vinitaly di Verona termina qui. Io ringrazio Paolo Corleone e Davide Ciocia, Elena Ligios qui a Verona con me, dagli studi di Milano Marco Lombardo. Ci sentiamo naturalmente domani con Salvadanaio regolarissimo da Milano. A tutti buona giornata. Salvadanaio.